bottone armato e da qual fine o prence per rapire Griselda, rapirla e non procura s'accinge questo ancora e il temerario eccesso si punisca l'indegno e moro dove il navitore indegno dia luogo ognun che perdo se rapita è Griselda. Tanto ricordo così mi giova ed io l'abbandona al suo fato. Troppo è crudele il tuo signore mio ed è vero tal lontano non lasciar che in tal sorte ti tolga altri la morte la mia morte.